Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Se per caso vi foste chiesti chi è stato l'uomo più intervistato in questi primi due mesi del 2012, non pensate nemmeno di rispondere a Obama o Mario Monti o Sarkozy, perché la risposta esatta è Dino Zoff. Corrisponde, caro vecchio Dino? Ma direi di sì, perché sono stata una settimana terribile. Senti, tu hai compiuto 70 anni l'altro ieri, io ho sott'occhio direi tutte le principali interviste cartacee che hai rilasciato, poi lasciamo stare quelle televisive, quelle radiofoniche, le rievocazioni. Ho pensato come formula di riproporre alcune delle centinaia, migliaia di domande che ti hanno fatto, così controllo le risposte e serve anche da test attitudinale. Va bene. No, a 70, sai. Vuoi prendere in castagna? A 70 un controllino è meglio darlo. Senti, allora no, prima una sola mia, che è questa. È vero che ti stai allenando per Ballando con le Stelle? No, questa è una provocazione. Questo non succederà, guarda. Toglimi il saluto se mi vedi là. Sei andato oltre, adesso comincio a citare, col Venerdì di Repubblica con Maurizio Corrente sei andato oltre, lui ti ha detto ormai manca solo Zoff al Grande Fratello e tu hai risposto nel caso ammazzatemi. Volevo essere un po' più gentile adesso, ecco. La sostanza è quella però. Non cambia. Dalla Stampa, Marco Ansaldo, come invecchia un monumento? Invecchia col tempo, con la natura, con un po' di polvere sopra o un po' di ruggine di metallo, però insomma è sempre lì. È sempre lì. Tu a lui hai detto che nella cultura contadina, che è la tua, perché tu sei nato in campagna, nella famiglia dei contadini, si sa che le stagioni esistono in natura e nella vita. Ho parlato di natura anche adesso. Esattamente, quindi... Senti, dal Corriere dello Sport invece ti chiedono, ripeto, tra queste erano 70 domande, ti chiedono se hai rimpianti lungo questi 70 anni. Ma io dico di no, ecco, perché le cose che ho fatto bene o anche male, in quel momento non potevo farle diversamente, si vede, e quindi certamente... se ne possono parlare, però non c'è, si vede che in quel momento non potevo fare altro, quindi magari ho fatto pochissimo e male, però in quel momento era così. A Fulvio Zara hai allungato un po' il concetto dicendo di aver avuto comunque moltissimo della vita e che... quello era scontato. E che certe volte dovresti baciare dove cammini, tu, no? Sì, certo, questo la natura, la famiglia, il nostro Signore, quindi insomma fin qui tutti ci hanno messo mano, ecco. Ti do questa, qui ti leggo domanda e risposta, questo è il Guerin Sportivo invece, alla domanda perché l'Italia ha vinto il Mundial dell'82, tu hai risposto perché aveva un uomo che si è preso tutte le responsabilità, anche quelle non sue, Enzo Berzot. Sì, la posso ripetere in pieno perché insomma era un comandante vero, in prima fila, sempre chiaro, sempre onesto, e quindi questo è stato un esempio che tutti hanno seguito, insomma, e quindi ci ha salvaguardato quasi sempre, insomma, con un uomo così come facevi a non fare il massimo per rendergli giustizia. Torno al Venerdì di Repubblica, lei ha giocato, ufficialmente l'era di lei ha giocato 330 partite consecutive in Serie A, che sono 11 campionati, come ci si riesce? Ma ci si riesce con un po' da incoscienti, questo è pacifico, perché io non ho mai badato a tosse, raffreddore, qualche lieve incidente oppure... la febbre a 37,5, 38, ecco. Poi naturalmente l'allenatore Trapattoni in special modo era al corrente di questo e quindi ci prendevamo la responsabilità di non dirlo e io andavo in campo. Già, detta così sembra semplicissima, però sono 330 partite. A Crosetti hai aggiunto, però oggi non ci riuscirei, perché oggi c'è Tremati che ti fa gol, comincia un ridicolo balletto, comincia a fare queste coreografie da varietà, e io prima o poi mi sarei fatto squalificare menandole uno. Beh, questo no, si arrivava notte, certamente, no, questo è il completamento, perché già ero arrabbiatissimo con i primi che facevano delle sceneggiate in area, tipo Chiarugi, eccetera. Quindi, per non far nomi, si capisce. Quando arrivavano in nazionale era meglio che girassero là, ecco, questo è pacifico. Certo. A me hai detto, no, a me non soltanto a me, ma insomma in una circostanza hai detto seriamente, con molta durezza, si parlava di terzo tempo, di questa moda che si era presa o si stava prendendo e che poi è finita, mutuata dal rugby, questa specie di corridoio d'onore, e tu mi hai detto: io la mano a uno che mi ha rubato un rigore a fine partita non la do. No, sono pronto a ripeterla, non potrei farlo, no. Non ci sono terzi tempi, se non c'è la cultura veramente dello sport in campo, del comportamento leale, eccetera. Se uno mi ruba un rigore, ma io non solo non lo saluto, insomma, proprio non lo guardo neanche in faccia. Certo. Guerin Sportivo, qui ti parlano di tecnica, no? E ti ricordano che un tempo si diceva che tu paravi anche con i piedi, come se fosse un difetto e non un valore aggiunto, e che volavi poco, no? E tu ripercorri le basi tecniche della tua formazione di portiere. Beh sì, effettivamente io paravo con i portieri, però ero sempre orizzontale davanti a quello che tirava, quindi cercavo di occupare più spazio possibile. Poi quello, naturalmente, vedendo la parte più grossa del corpo che andava da una parte, mi metteva la palla dall'altra parte e io coi piedi la paravo, ecco, questo perché sennò sembra che uno pari coi piedi quando è su dritto, eccetera, no. E poi dopo non è vero, perché se vai a vedere sono tante foto che avevano una potenzialità di spinta, che insomma, quando c'era da volare, volavo. Volavi, solo che precisi qua, giustamente, che tante volte il volo copre un errore di piazzamento, rimedia un errore di piazzamento. Beh, non sempre, non ecco. Sempre. Beh sì, certo. Per chi ama il teatro, sì, magari. No, no, però insomma cercavo la semplicità sempre, ecco, questo. Perché la semplicità è anche con molte probabilità il fatto di sbagliare di meno, ecco, questo è. Certo. Torno al Corriere dello Sport, l'attaccante italiano più temibile. Beh, senza dubbio Paolino Pulici, perché dovevo incontrarlo due volte sullo stesso campo, quindi a Torino, e lui in casa si trasformava, era veramente l'eri di Dio. Certo, anche Riva dopo non era tanto da meno, però diciamo che Pulici, incontrandolo due volte davanti ai suoi tifosi, qualche rischio in più c'era. Non c'è dubbio. Senti, lo straniero invece hai risposto Cruyff e Maradona. Beh, lì sì, sono stato, insomma, sì, Cruyff, che anche mi ha fatto qualche gol agli inizi suoi in un Ajax-Napoli di Coppa UEFA, e quindi insomma probabilmente ha cominciato a far gol con me. Torniamo in compagnia di Dino Zoff con la riproposizione di un'altra domanda dal Corriere dello Sport. Il calciatore italiano più forte degli ultimi 50 anni, ti suggerisco l'inizio della risposta che hai dato. La prima parola è modestamente. Sì. E poi continua: modestamente nei 50 grandi scelti dalla FIFA io ci sarei. No, io ci sono, ecco, nella famiglia della FIFA io ci sono, insomma, no, in campo internazionale sono qualcuno, non scherziamo. Ti volevo dire prima che non ho bevuto un bicchiere d'acqua, no, ma bensì un sorso di Sauvignon straordinario di Vie di Romance, ma di Mariano del Friuli, quindi del tuo paese, e quindi è consigliabilissimo. Consigliabilissimo vuol dire che ecco come è ripreso brillantezza, no? con l'aria e il vino di casa. Poi però in questa citazione di un grande italiano degli ultimi 50 anni hai citato Paolo Maldini. Beh, effettivamente, perché lui ha fatto da 17 anni a quando ha smesso a 35 una carriera ad altissimo livello sempre, quindi veramente Sì, non è un attaccante, non faceva magari notizie, notizia, però è stato straordinario secondo me. Senti, sempre di questo genere, perché poi il pubblico apprezza, io per primo, in particolare queste le opinioni dei grandi, no? I più forti calciatori con cui hai giocato, questo te l'ha chiesto Alberto Costa del Corriere della Sera, e tu ne hai citati un discreto numero, vediamo se per caso ne aggiungi. Tu hai citato Sivori, Platini, Altafini, Schnellinger, Boninsegna, e poi dici la gran parte dei miei compagni al Mondiale di Spagna. Sì, più o meno sono tutti, ecco, poi magari mi dimentico qualcuno ancora, ecco, però sono quelli. Senti, raccontaci, una volta l'hai fatto con me in un'intervista che tra l'altro deve ancora uscirà tra un po' e dopo ti dico quando, raccontacene qualcuna di Omar Sivori, perché mi ha molto colpito scoprire che l'ortodossia e l'etica del calcio rappresentata da Dino Zoff non solo apprezzava ma amava l'estro e direi anche la follia di un personaggio come Sivori, con cui tu hai giocato nel Napoli. Beh, Sivori era straordinario, era stato un artista in campo, quindi già lo vedevo come un dio, ecco. E poi era di un sarcasmo terribile, perché quando qualcuno veniva e gli diceva: Omar, ti ricordi, abbiamo giocato contro, io ero nella SPAL, allora lui faceva una faccia un po' strana e diceva: giocato, eri in campo. No, non esageriamo, no. E poi un'altra diceva: ma sì, voi portieri, se non c'erano i tre pali morivate di fame. È il Cabezón, uno dei più grandi di tutti i tempi. Senti, e quella volta invece che in uscita l'hai travolto? Sì, l'ho sdrenato, a dire la verità. Solo era l'anno 64 in Juve Mantova, una palla lunga, comunque io in uscita lo toccai col ginocchio eccetera, gli ruppi qualche costola, lui rimase per terra e arrivò Heriberto Herrera, che era l'allenatore suo, che lui era in guerra a quel periodo. Mortale nemico, Era una bestia questo Heriberto, lo raccolse su e lo portò fuori dal campo. E lui mi disse sempre: non te la perdonerò mai, ma non perché mi hai fatto male, perché mi hai fatto portare fuori da Heriberto. Ecco ragazzi, vabbè, senti, da tutti questi giornali ricavo che insomma non è difficile individuare quella che tu ritieni la parata della tua vita. Beh sì, indubbiamente sì, quella del Brasile su Oscar è senza dubbio, perché era una parata difficile per la posizione di tanti brasiliani, la respinta era problematica, ero già sulla linea, quindi dovevo tenerla a tutti i costi, e quindi oltre ad essere importante è stata anche difficile. Sicuramente, questa credo che sia una parata che chiunque abbia assistito a quella partita non dimenticherà mai, quindi non solo tu che l'hai fatta, ma anche... Ma no, me la ricordano tutti. Te la ricordi anche tuttora, tu. Sì. No, ti dicevo che c'è quest'altra intervista, tu lo sai bene, non lo sanno gli ascoltatori, che non è ancora uscirà tra un paio di settimane su Il, che è il magazine del Sole 24 ore. Lì ti ho chiesto tra le altre cose, perché una volta la camera tua e quella del povero Gaetano Scirea era chiamata la zona del silenzio, e invece oggi a 70 anni, ma anche prima, anche da anni ormai, sfoggi questa dialettica appassionata, divertente, cioè si capisce che ti diverti a parlare mentre una volta invece le parole le risparmiavi. Beh, ma sai, una volta era... Adesso è più facile parlare, perché parlo del tempo passato, di quello che è successo, eccetera. Ai tempi lì che dovevi parlare della partita, del perché, il per come, com'era quello, com'era, chi ha sbagliato, chi... E quindi insomma, io molte volte, anche per non essere sempre banale, perché poi dopo sono abbastanza diplomatico, e quindi dico: ma è meglio che non parli, senza dire sempre le stesse cose. Evitiamo le banalità. E da lì, sei uscito da questa domanda citandomi un verso di Guccini. Eh sì, di Guccini, perché lui diceva: beh, è inutile spacciare delle cose per il nuovo se cambi, se le cose vecchie con il vestito nuovo, esatto. Quindi da contropiede a ripartenza, un po' mi vergogno di la verità. Però ci sta, Senti, e mi hai raccontato che un grande interprete di Guccini era Francesco Rocca, che molti oggi hanno dimenticato, che è stato un terzino della Roma e della Nazionale, e che si frantumò un ginocchio e che probabilmente con le tecniche di oggi, insomma, oggi non sarebbe più in carriera, ma avrebbe fatto una grande carriera invece di doverla sacrificare purtroppo all'ortopedia di quel tempo, che non era ancora così avanti. No, effettivamente lui era una forza della natura, un entusiasmo, il calcio vero, leale, sportivo, e quindi fu purtroppo massacrato, ma non solo una volta, anche poi ripetutamente con delle operazioni, eccetera. Veramente è stata dura, io lo capisco, l'ho sempre apprezzato, l'ho voluto come secondo in nazionale, perché è una persona veramente speciale, un po' integralista se vogliamo, però speciale. Speciale, ma un po' l'integralismo io credo che non guasti, no? In questo mondo di piacioni, eh? Sì. Non è detto che sia poi un limite, tu per esempio un grande piacione non hai mai voluto esserlo, E secondo me è un vero valore aggiunto. Senti, l'ultima domanda la trago dal Corriere dello Sport, che ti domanda perché non le hanno mai proposto seriamente un ruolo dirigenziale in federazione? Ma a dire la verità non lo so, insomma, io che ne so, sono non sarò comodissimo, non sarò all'altezza, non lo so, ecco, non voglio dire la verità, adesso è passato, quindi... A lui ha risposto, è perfetta anche questa risposta, ma lui ti ha incalzato dicendo, l'intervistatore del Corriere ti ha detto, è tardi? E tu gli hai risposto, diciamo che non è presto. Non è male, prestissimo non è. Senti, io a questo punto direi che tu ti prendi un altro bicchiere di Sauvignon e torni sul piedestallo, come devono fare i monumenti, però con l'intesa che magari ci sentiamo prima degli 80. Vabbè, io spero di sì, che magari sarò magari diverso un po' prima, perché poi non mi ricorderò un po' niente di tutto questo, e chissà che cosa ti potrei raccontare se ci sarò. Ci sentiamo presto, Dino, un abbraccio, tanti cari auguri ancora. Insomma, sinceramente da Zoff no, non è facilissimo continuare, no? Perché potrei magari continuare con tutti i messaggi che sono arrivati nel frattempo, i ricordi belli, qualcuno sollecitava anche i ricordi brutti come i gol dell'Olanda e del Brasile nel 78, ma... insomma, anche queste erano domande, però ripeto, io ne ho selezionate una ventina tra alcune centinaia. Sfogliare l'album dei ricordi di Zoff e della sua carriera significa perlustrare 50 anni di calcio, perché poi tra l'altro Zoff ha compiuto 70 anni tre mesi dopo il cinquantenario, il mezzo secolo del suo debutto in Serie A, quindi capite bene che è uno che ha fatto una carriera al suo livello, insomma, bisognerebbe andare anno per anno, no? e ricostruire tutto quello che gli è accaduto e che è accaduto al Mantova, no, prima all'Udinese, poi al Mantova, poi al Napoli, poi alla Juventus, e sormontando la nazionale. Zoff ha un primato in nazionale di 113 partite, che ovviamente è il portiere di più grande longevità, come presenza davanti soltanto Maldini e Cannavaro. Adesso anche Buffon, perché proprio ieri sera Buffon, nella sfortunata e brutta partita con gli Stati Uniti, ha superato di una lunghezza la presenza, il numero delle presenze di Zoff. Partita di ieri sera, su cui poi magari ci esibiremo insieme, o vi esibirete voi in particolare dopo l'intervallo, l'8-0-0-24-0-0-24, dopo aver riascoltato, lo facciamo magari anche subito, il primo commento a caldo di Prandelli dopo la sconfitta. Sì, immeritata, però con questo spirito sicuramente faremo un grande europeo. La squadra mi è piaciuta, la squadra come dicevo prima, non solo spirito ma anche voglia di superare tutte le difficoltà. Ovviamente giocare ogni tre mesi diventa complicato, però io sono convinto che possiamo fare un grande europeo. Siamo stati un po' più incisivi, abbiamo alzato un po' di più il ritmo e ovviamente sì, mi è piaciuto un po' di più. Noi abbiamo fatto delle cose interessanti su quella verticale. Il problema è che avevamo attaccavamo la profondità con i tempi sbagliati, infatti siamo andati spesso in fuorigioco quando potevamo stare molto più attenti. Chiami Zoff tutte le settimane e glielo dice un tifoso granata che si firma Vanni da Cuneo. Roberto da Lodi fa, secondo me, una sintesi molto bella, molto efficace, e dice: e poi ci chiediamo perché è cambiato il calcio. Basta lo spessore delle risposte di questo campione a spiegare bene molto più di tanti discorsi. Tenga il grande Dino ancora un po' in onda. Beh, ragazzi, no, mezz'ora non è proprio pochissimo, quasi mezz'ora non è proprio pochissimo. E un altro molto spiritoso dice: per fortuna che Dino non compie gli anni il 29 di febbraio, in effetti ci è mancato poco, visto che era il 28, perché sennò queste conversazioni con lui sarebbero soltanto ogni 4 anni. Petrucci ha appena detto, è presidente del CORI, mi sembra lo ha detto in maniera ufficiale con le maiuscole, sono tutti d'accordo con me che non si possa dare amnistia agli indagati per calcio scommesse, non se ne parla nemmeno, non sarà concessa. Poi c'è questa telefonata di Agnelli a Gagliani che sarebbe avvenuta, ma pare sia avvenuta davvero ieri pomeriggio, e i due dopo le amenità di sabato sera si incontreranno domani a Milano all'assemblea della Lega di Serie A. E poi ci sono le designazioni arbitrali che, dopo il disastro dell'ultima giornata, indubbiamente un po' di curiosità la suscitavano. Roma-Lazio sarà diretta da Bergonzi. Quanto al duello di testa, l'anticipo del pomeriggio di sabato Palermo-Milan è stato affidato a Orsato e il posticipo serale Juventus-Chievo a Gervasoni. Scrive Francesco De Biasi da Napoli, dice: non credo che questo rientri nelle sue competenze, ma sarebbe bello se lei potesse ricordare in grande Lucio Dalla. Beh, penso che sia impossibile non ricordarlo, un personaggio, un artista della statura di Lucio Dalla, e mi auguro che venga ricordato anche in ambito calcistico. È un grande appassionato di calcio, prima ancora che tifoso del Bologna, e credo che il Bologna in particolare lo ricorderà con grande affetto nella prossima partita. La partita di ieri sera di Italia-Stati Uniti è stata vista da 7.291.000 telespettatori, che mi sembra uno share altissimo perché è superiore al 25%, segno che c'è poco da fare, il calcio in televisione rimane un grande, forse enorme richiamo, indipendentemente dalla qualità, insomma, dello spettacolo offerto. Alessandro in linea dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno Gantini, grazie per il saluto al mitico Zoff. Sì. Parlando del calcio attuale, noto che sì, mass media, ma comunque il calcio parla più di problematiche, o meglio di falli, gossip, gol annullati, che non di tattica o di tecnica. Della partita Milan-Juve non si è quasi analizzato il comportamento dei giocatori a livello tattico o tecnico. Ha ragione. E non solo Milan-Juve, dico in generale. In generale, sì, ha ragione. Si parla solo di fuorigioco, di gol annullato, di rigore, ma di calcio se ne parla ben poco. Io che sono un amante del calcio, che mi guardo anche la partita di Pulcini dell'oratorio, il bello del calcio è ovviamente i gol, le azioni, dicendo, e non le chiacchiere. Cioè le chiacchiere bisogna fare al bar. Alessandro, sono 31 anni di biscardismo, che adesso non è più, come dire, non è più regnante, però i danni si stanno si riverberano ancora, no? Una generazione e mezza probabilmente, non dico perduta del tutto, ma certamente duramente compromessa da questo punto di vista, no? Proprio dell'inquinamento. Scrive un ascoltatore, dice: continua a pensare che Gagliani farebbe bene a sbolognare Pato a luglio al miglior offerente. E ovviamente si riferisce a questo infortunio, che credo sia il 15° se non ho letto male, infortunio in muscolare toccato in questi 3-4 anni di Milan a Pato. La mia risposta è che Galliani l'aveva già bello sbolognato, se è per quello, e non al miglior offerente. Cioè, nel senso, sì, al miglior offerente, ma che ha offerto una somma spropositata, a parer mio, e cioè il Paris Saint-Germain. E poi l'operazione, come si ricorderà lei, era stata bloccata all'ultimo momento, anche in maniera abbastanza avventurosa, diciamo. Io più passa il tempo e più penso che quell'errore commesso, tra l'altro, alla vigilia di Inter Milan, se non ricordo male, sia stato un errore grave. Più passa il tempo e più la storia Pato e fidanzati, insomma, mi ricorda una storia degli anni 60 tra Germano e la contessina Augusta, sempre a proposito di Milan e sempre a proposito di presunti grandi campioni. Poi in realtà Pato ha ben più qualità di quante ne avesse allora Germano, però ha anche i muscoli molto più fragili. Giovanni Torino, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Volevo fare una domanda un po' così provocatoria a Dino Zoff. Bisognerebbe. Vabbè, gliela notifico alla prima occasione. Infatti, ho visto. Tra un Sauvignon e l'altro, dai. Visto che ha dichiarato che non darebbe mai la mano a uno che gli ruba un rigore. Sì. E la darebbe a Buffon, che ha dichiarato che la palla l'ha vista dentro? Alle domande provocatorio trattino cretine io non credo che Zoff risponda volentieri, però cioè, forse sono io, lui in realtà risponde perché non gliene, al massimo ripeto un sorsetto del vino di casa sua, insomma. E manda giù anche questo. Io credo che la mano a Buffon la darebbe volentieri, e come, e credo anche di aver letto una sua interpretazione, non ripeto, tra 700 domande ne ho selezionate di più intelligenti, se mi permette, però gli è stata fatta la domanda numero 19 di Furio Zara, in questa intervista apparsa martedì su Corriere dello Sport, è la seguente: a proposito di Buffon, come giudica a Zoff, ovviamente, la sua uscita dopo Milan-Juve, anche se avessi visto che era gol non l'avrei detto all'arbitro? La risposta di Zoff è: l'arbitro è lì per giudicare, giusto? E comunque, se fosse stato l'arbitro a chiederglielo in campo, beh, allora sarebbe stato diverso. Spero sia, se non rimborsato, almeno soddisfatto, Giovanni. Fabio da Firenze, buongiorno. Buonasera, grazie per farmi intervenire. Prego. Una semplice considerazione: meno male, e speriamo che Zoff abbia chiuso la questione Milan-Juventus con questa dichiarazione. Primo. Secondo, vorrei soltanto ricordare, purtroppo Zoff non c'è più, quando lui semplicemente da grande campione faceva il bagno su uno scoglio dove ci andavano gli spugnizi, pagando 100 lire una barca per farsi portare su quello scoglio a Napoli, e nessuno gli rompeva le scatole per avere il suo autografo, perché non dovevamo disturbarlo. Le aggiungo. Erano gli anni veramente del grande calcio. Di Sivori che andava nella tenda del circo, tutti i bambini impazzivano, però lui si salutava e finita lì. Nessuno rompeva le scatole, certo. Andare a fare domande, andare a dare il bacio, a bracci. Ad assediare, e tutto questo divismo sfrenato. Che oggi ha travolto non solo il calcio, ma insomma chiunque partecipi appunto al Grande Fratello piuttosto che a qualche altra troiata di quel genere, no? E ormai basta questo, direi, per capire che insomma, questo senza alcuna nostalgia dei tempi andati, è semplicemente con il disprezzo per quelli attuali, semmai, che insomma, mi sembra che sia comunque un sentimento degno di rispetto a sua volta. A proposito di quei tempi, mi ha raccontato Zoff quale fu la sua principale difficoltà a Napoli. E questa: c'era l'abitudine allora, oggi guai, oggi è un'abitudine scritta praticamente, quasi contrattuale in tutti i campi e in tutte le categorie, il saluto alla curva, guai soprattutto nel portiere, perché il portiere uno dei due tempi lo passa sotto la curva, quindi non può permettersi di non fare almeno un cenno di saluto a loro signori. A Napoli questa abitudine, molto meno guerresca di come oggi, però c'era come omaggio e come rispetto alla curva sin dagli anni 60, quando Zoff arrivò, e Pesaola, allenatore del del Napoli, quando vide la prima volta che Dino entrò, uscì dal campo senza alzare, insomma, senza fare questo saluto, gli disse: guarda Dino, che da noi a Napoli c'è questa abitudine. E Zoff mi ha raccontato che lui riusciva a sollevare questa mano, questa manina, la manona diventava una manina, e guadagnava 5 centimetri a ogni partita, perché in realtà si vergognava, no, di fare sta cosa teatrale, per cui gli aveva detto di farla e tirava su sta manina ogni partita qualche centimetro in più. Questo per dare un'idea del soggetto. Marco Crocetti scrive: ho ancora negli occhi la parata di Zoff sul centravanti del Brasile in Mondiale 82, con il 3-2 quella palla si è fermata sulla linea come sul bordo di un precipizio. Io ho letto questa pagina solo per ricordare ancora una volta che Oscar, cioè, che dato che su YouTube e su altri Wikipedia e finché ce ne girano versioni improbabili, non era il centravanti, non era Paolo Isidoro, non era, insomma, ne han dette tante, era Oscar, come ha ricordato prima Zoff, era Oscar che era uno dei due centrali difensivi che colpì quel pallone di testa in maniera assolutamente perfetta. Massimo, chiamato da Venezia, buongiorno. Massimo, ultimo appello, dica. Buongiorno, scusi il ritardo. Velocissimo, trovo ipocrita dover così obbligare, insomma, chiedere ai calciatori di autoaccusarsi di qualcosa che va contro la loro squadra, perché non capisco perché l'arbitro dovrebbe allora accettare la loro versione quando va contro la loro squadra e non accettarla la volta che un calciatore dicesse: no, guarda che non è entrata, per esempio. Un'altra cosa, secondo lei, tra Fiorentina, Roma e Inter, chi è che sta facendo peggio rispetto ai propri obiettivi e ai propri budget? Tra Fiorentina, Roma e Inter, guarda, io direi Fiorentina e Inter, secondo me, anzi Inter e Fiorentina in ordine di gravità. La Roma la terrei leggermente, non tanto, ma insomma le concederei attenuanti generiche, perché ha cambiato e ha sposato un progetto. Poi questo progetto, cioè, su questo progetto si può discutere, ma direi anche ampiamente, però insomma c'è stato un rinnovamento profondo di squadra e non solo di guida tecnica, e qualche segnale interessante c'è, insieme però ad errori che cominciano a diventare cronici, sia ambientali che tattici, soprattutto a fase difensiva. E quindi sì, direi che anche la Roma comunque tanto ben conciata non è. Massimo da Venezia, ah no, era lei, mi scusi, Antonello Olbia, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi fatto intervenire, volevo un suo parere. Secondo lei Allegri nella partita Milan-Juventus avrebbe fatto meglio a far giocare Shaarawy dal primo minuto al posto di Fatto? Ah sicuro. Sì. No, direi che proprio non c'è dubbio, ma anche un altro, cioè, non so, mi dica uno della prima, mi dica uno che facesse 11 invece che fare 10. Sì. Se lei ne dice uno che facesse 11, era comunque meglio di Pato. E no? Poi un'ultima cosa, se lei si ricorda un altro giocatore con i problemi di Pato, se mai si ricorda. Ci vorrebbe più memoria, ma certamente ce ne sono stati, cioè non... però insomma, proprio così giovane e così fragile, perché vede, a 17 anni, a 17-18 anni rischiava di essere così Leo Messi, che ebbe 3 o 4 infortuni muscolari ravvicinati, tra l'altro più gravi di quelli di Pato, profondi, ma lì c'era stato il problema di questa crescita, si fa per dire, ma insomma crescita, perché improvvisa, e quindi era legato direttamente, no, a questo allungamento proprio di tendini, di fibre muscolari, eccetera, che era stato un po' repentino e che aveva creato degli squilibri. Poi sono stati bravissimi evidentemente a curarlo, eccetera, a potenziarlo da un punto di vista strutturale e muscolare. E da allora Messi, toccando quello che c'era da toccare, non ha più avuto di questi problemi. Pato invece ormai, lo dicevo prima, sono 3-4 anni che tribola da questo punto di vista e cominciano sinceramente a essere un po' tanti. vari ascoltatori scrivono che l'espressione domanda cretina è un po' forte, secondo me è un po' approssimata per difetto invece, soprattutto dipende dal contesto, cioè se io avessi chiamato Zoff per proporgli un'intervista sull'attualità, sulla partita di ieri sera, allora gli avrei chiesto di Buffon, gli avrei chiesto di queste miserie umane, no? Di questi ultimi giorni, e gli avrei chiesto anche come giudicava la partita di ieri sera d'Italia, eccetera. Allora, secondo voi, avere Zoff che compie 70 anni, è più interessante chiedergli queste, ripeto, piccole miserie di cronaca, oppure invece provare a spaziare su 70 anni o 50 che dir si voglia di calcio italiano e mondiale a quel livello? La scelta è quella, scelta per il momento le fa chi guida, il volante l'ho ancora io, e quindi insomma, può capitare di sentire poi che ci sia qualche domanda alternativa, ecco, facciamo così, anziché cretina, qualche domanda alternativa che a parer mio proprio non è che sia così centrata rispetto all'argomento. Nicolino Filippone e il primo marzo. Sembra ieri. Primo marzo 1989. Andata dei quarti di finale di Coppa UEFA. Al Comunale di Torino va in scena il derby italiano tra la Juventus di Dino Zoff e il Napoli di Ottavio Bianchi. I bianconeri passano dopo 13 minuti con una conclusione da fuori area di Pasquale Bruno e raddoppiano al 45esimo con una deviazione nella propria porta di Corradini, indotto all'errore da un cross di Rui Barros. La gara si chiude sul 2-0, un punteggio che rappresenta per la Juve un'ipoteca sul passaggio alle semifinali. Ma due settimane dopo, al San Paolo, Maradona e compagni restituiranno il 2-0 nei tempi regolamentari e all'ultimo minuto dei supplementari segneranno con Renica il gol qualificazione. Ecco, Daniele da Venezia ha trovato un possibile paragone con la fragilità di Pato, che è quella di Robben. Ci può stare, forse Robben ha incidenti, infortuni muscolari più lunghi, cioè ancora più gravi, e però un pochino più radi in compenso. Cioè Pato adesso purtroppo è un anno e mezzo che gioca, cioè che ha rotto sempre, insomma, cioè che si rompe in continuazione, ed è davvero inquietante per un ragazzo di quell'età. Claudio Parma, buongiorno. Sì, buongiorno a lei Garanzini. Dica. Posso iniziare con una battutina? Dopo la partita Juventus-Napoli che è stata ricordata da Nicolini adesso, è stato fantastico secondo me il commento di Michel Platini che al gol di Pasquale Bruno, che infilò un improbabilissimo tiro da tre quarti di campo, disse: questa sera è morto il calcio. Sì, non la ricordavo, ma non faccio fatica a credere che l'abbia detto davvero, perché è stata fantastica. Detto questo, volevo parlare, io sono un pediatra, volevo parlare degli infortuni muscolari dei calciatori brevemente, solo per dire che Pato è al Milan da quando aveva 16 anni e 10 mesi o 17 anni e 2 mesi, non mi ricordo, sì. Più o meno, insomma, tanto per dare dei numeri così di riferimento. Sì. Possiamo a 5 anni di distanza, 4 quelli che sono, di militanza nel Milan, possiamo parlare di sfortuna per aver avuto così tanti infortuni muscolari all'interno della carriera? Oppure non dobbiamo invece fare un sano mea culpa e magari trovare un personal trainer o comunque anticipare i tempi, e quando ci si trovasse di fronte a un atleta che si vede così fragile, mi viene da pensare, essendo juventino, da ricordare Paolo Sousa, che era stato nella Juve anche lui con gravissimi problemi muscolari. Beh, ma non con questa frequenza. Ma Claudio, io però non posso pensare che Milan non abbia già provveduto, cioè io non posso pensare che Pato non abbia da tempo un personal trainer. È per questo che io penso che il problema sia serio davvero e sia grave, perché non è che, con tutto rispetto per lei che fa il pediatra, per me, per chi, per i tifosi del Milan che si interrogano, dice: no, ma noi Pato dovremmo farlo vedere da un altro specialista, non personal trainer. Ma io penso che il Milan questo l'abbia fatto da anni, e penso che se gli infortuni continuano ci sia un problema strutturale che al momento almeno non è assolutamente stato risolto, ma mi sento di escludere che non sia stato affrontato in tutte le maniere possibili. Ce ne saranno altre ancora, si tratterà di andare ancora oltre, ma adesso non mi dica che secondo lei Pato, con quello che rappresenta anche dal punto di vista del capitale, non è stato nel frattempo, come dire, dotato di un personal trainer. Alessio Treviso, buongiorno. Buongiorno, ciao. Innanzitutto volevo ringraziare per la trasmissione, infatti in modo molto simpatico ti seguo sia quando torno dal lavoro alle 2 sia quando vado al lavoro che inizio alle 5, pertanto alle 4 e mezza seguo la replica. E fin lì. E sì, là ci siamo. Poi solo volevo solo chiedere una cosa, poi la saluto. Sul discorso di Buffon, che a fine uno dice quello che pensa, a me mi è venuto in mente due fatti paralleli. Mi è venuto in mente di oggi che è giovedì, perché siamo sul pezzo, cioè roba fresca, voglio dire, di giornata. Ben, sì, mi è venuto in mente. So che ormai è un po' pesante la situazione. No, ma perché? È piacevole invece. Allora, solo due cose, poi mi dice quello che pensa e la saluto. Sì. A me il giorno dopo mi è venuto in mente un fatto che è successo in Inghilterra, se si ricorda, Di Canio, quando ha interrotto una chiara situazione di gol, che là poi è stato ricordato come fair play e tutto. Sì. E dopo, mi ricordo che anni fa è successo anche che De Rossi aveva fatto un gol, non so se di mano cosa, che era stato convalidato. Sì. E dopo De Rossi è stato lui a dire: no, guarda, l'ho toccata con la mano. Cioè, è vero. Però di questi due fatti non se ne è parlato. Però non so sapere lei cosa pensa, se ci può essere un... Guardi, io penso che Di Cagno ne ha fatte talmente tante nella vita che per fortuna ha fatto quella per andare non pari, per restare sempre con un saldo negativo che non le dico dal punto di vista della sportività, ma insomma perlomeno quello va a suo merito e va scritto nella colonnina del più. De Rossi fece quel bel gesto, non ricordo se era sul 3 o sul 2-0 per la Roma, ovviamente, comunque credo che fosse qualcosa di simile. Ricordo, se non ricordo male, un altro bel gesto del genere, sempre con 2 o 3 gol di vantaggio di Nedved, anche quando ancora giocava nella Lazio. È bello fare il call degli altri, non so se riempia lei i puntini, no? Più o meno siamo in quel genere ricucciano, lì, grosso, grosso modo. Diego Padova, buongiorno. Buongiorno, intanto nel ringraziarla per avermi fatto sentire il buon Dino, come le sue interviste a Bagnoli e a Bianchi le apprezzo sempre molto. Volevo farle solo una considerazione sulla partita di ieri sera dell'Italia. Io ho notato che il centrocampo dell'Italia era formato da giocatori che si stanno giocando un campionato, praticamente Nocerino, Pirlo, Marchisio e Thiago Motta in Francia. Per cui ho notato certi giocatori che invece di mettere la gamba la tiravano indietro, forse anche giustamente. Però i vari Ogbonna, Abate, quando sono entrati hanno dato l'anima, perché si stanno giocando un posto per andare agli europei, a differenza di questi che ho nominato prima, che mi sembra siano sicuri del posto in squadra per gli europei. Volevo sapere cosa ne pensava lei. E non so se è giusto, forse non so. Era meglio come era una volta, forse. Non penso, Diego. È normale che sia così, ma non è vero che questi tirano dietro la gamba. Mentalmente hanno... ma forse anche fisicamente hanno qualcosa in meno da spendere. Insomma, come può Ogbonna, che gioca nel Torino, che gioca in Serie B e che ha per ora, poi magari diventerà chissà che campione, ma per il momento come potrebbe Ogbonna non dare il 110% in un'occasione come quella di ieri sera, in una vetrina indossando la maglia azzurra, e come può invece, io dico Pirlo piuttosto che Nocerino, non so, scelga lei chi vuole, non sentire dentro il peso, l'usura della fatica fatta fino adesso in campionato, in coppa, e considerare la partita di ieri sera anche inconsciamente come una routine. Cioè, insomma, il calcio è una roba che si gioca in campo per il momento, no? Poi quando diventerà una roba davvero da PlayStation, allora giocheranno i robot e quindi sarà facile programmarli. Adesso bisogna tenere conto del fatto che sono tuttora di carne e ossa per il momento, non... Dire questi due messaggi. Uno è una documentazione vera. Mi scrive uno ascoltatore che nemmeno si firma e scrive Cristiano Zanetti. A proposito di infortuni muscolari, ecco un eccellente riferimento. Beh, questo è un ascoltatore di non solo cultura sportiva, calcistica, per di specie, ma anche di grande memoria. Perché è vero, Cristiano Zanetti avrebbe fatto una grande carriera se non fosse stato flagellato da infortuni muscolari ricorrenti. E poi ce n'è un altro che dice: io sono Giovanni, quello degli SMS idioti, no? E per togliere ogni dubbio, no? Su questa sua etichetta scrive: ho ancora negli occhi il gol di Turone, Zoff cosa ne dice al riguardo? Ecco, quindi, caro Giovanni, grazie di essersi fatto riconoscere anche in questa circostanza. Direi che ci siamo, sì, di là dal vetro arrivano segnali di resa, quindi grazie alla regia di Fabio Cantadori, al contributo di Franco Piantanida, evidentemente grazie di cuore a Dino Zoff e a tutti voi che avete seguito. Buon pomeriggio.